Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, e visto che l'intera Radio 24 oggi, domani, è mobilitata sulla giornata, le due giornate che dedichiamo alla crisi, non perché non ce ne occupiamo purtroppo di solito, ma perché vogliamo dare ancora una maggiore informazione di servizio e non solo. Come anticipavo ieri, oggi il programma in via eccezionale, oggi e domani, è aperto anche alle telefonate 800 24 00 24. Le prenderemo dopo i mercati, quindi indicativamente verso 17.35, 17.40, ma se volete già prenotarvi chiamate. Due precisazioni: Deborah Rosciani ha svolto anche oggi un ottimo lavoro, un doppio ottimo lavoro, visto che ha avuto anche un raddoppio di salvadanaio dalle 15 alle 16, rispondendo ai quesiti più pratici, com'è nel taglio, nella linea di quel programma, e quindi pensioni, ma non solo, anche fiscalità, risposte pratiche a chi ha casi particolari da sottoporre. Noi anche qui nella linea del programma tratteremo più i temi che riguardano lo scenario complessivo, sia macroeconomico sul fronte appunto della crescita mancata, della recessione in atto, sia sul fronte finanziario, quindi indebitamento delle banche, bisogno di ricapitalizzazione delle banche, scenario dei mercati finanziari, tendenze che arrivano sull'export e sui consumi interni, e anche commento alla manovra. L'unica cortesia che vi chiedo: non confondiamo i due programmi, nel senso che con i nostri ospiti oggi non risponderemo a domande di carattere pratico, cosa devo fare, cosa mi conviene fare e che cosa prevede, per esempio, cosa prevedono le novità di carattere fiscale e previdenziale contenute nella manovra. 349-238-6666 resta invece il numero, come sempre, per i vostri sms. Le borse come vanno? Mantengono dei rialzi più che significativi: Milano più 2,64%, Parigi più 2,60% anch'essa, Francoforte più 2,80%, Londra più 0,85%, con un euro che è in leggero recupero a quota 1,31. Ancora, l'input più forte oggi sulle borse è arrivato soprattutto da Wall Street, che ha aperto molto bene, e questo ha confermato anche i rialzi delle borse, con l'unica eccezione di Londra. Londra si mantiene cauta, ma l'altra notizia importante è il successo dell'asta dei titoli spagnoli a 3 e a 6 mesi. I bond spagnoli sono stati ben collocati, adesso ne parliamo, e infatti anche Madrid andava molto bene come borsa. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, le altre notizie in breve. Oro riconquista quota 1600 dollari, il petrolio va a 96 dollari al barile. Per quello che riguarda gli elementi che stanno contribuendo al buon andamento delle borse, citiamo, oltre all'apertura di Wall Street e all'asta dei titoli spagnoli, anche l'accordo raggiunto ieri in serata per aumentare di 150 miliardi di euro i fondi al Fondo Monetario Internazionale. La Gran Bretagna, l'abbiamo raccontato ieri in diretta, rifiuta di partecipare al fondo di salvataggio del Fondo Monetario Internazionale, e l'Italia invece, secondo le varie quote che ogni paese deve dare al Fondo Monetario Internazionale in base al suo peso, metterà a disposizione 23 miliardi e mezzo di euro, pari al 15% dei 150 miliardi di euro complessivi. Ora, non è che li tiri fuori subito, sono a disposizione. La Gran Bretagna, però, adesso non vorrei essere malaugurante, ma si sta, con la mossa a mio avviso improvvida di Cameron al vertice europeo, in cui si è attirato tutti gli strali della Francia, della Gran Bretagna, di tutti, e in questo modo ha tolto le castagne del fuoco alla Germania, che è riuscita a ottenere quello che voleva, non cedere di un millimetro, ma nessuno se n'è accorto perché tutte le notizie riguardavano la Gran Bretagna, la rottura britannica. Già erano uscite alcune discrezioni, alcuni commenti nei giorni scorsi molto preoccupati da parte della comunità, della business community, come si chiama in gergo, la comunità economica e finanziaria britannica, su un isolazionismo britannico che avrebbe prodotto danni al paese. Oggi è arrivata una bastonata a David Cameron, non dai sindacati, ma dai principali businessmen britannici. In una lettera aperta al primo ministro, 20 uomini d'affari, da Richard Branson della Virgin a Sir Mike Rake di British Telecom, hanno chiesto, la lettera l'hanno scritta al Daily Telegraph, hanno chiesto di cogliere l'opportunità per ripensare al processo di coinvolgimento europeo. In maniera molto diretta hanno detto: caro Presidente del Consiglio, ricuci oppure il rischio di avere una Gran Bretagna fuori dall'Europa e quindi anche fuori dalle esportazioni europee potrebbe portare a 3 milioni di posti di lavoro persi in Gran Bretagna. Come va lo spread? È in calo, ma ripetiamo, 458 punti sono meglio di 470, questo più da catalano che da analisi, però sono sempre un livello altissimo, 458 punti, comunque grazie soprattutto al boom di domanda per i bot spagnoli. Boom di domanda praticamente ha collocato Madrid 5 miliardi e mezzo di bot a 3 a 6 mesi e praticamente la domanda è stata 4 volte l'offerta per il bot a 6 mesi e quasi 3 volte l'offerta per il bot a 3 mesi, con la conseguenza che i rendimenti sono calati e, come sempre nel mercato, se c'è tanta domanda riesci a collocare queste obbligazioni a rendimenti più bassi, se ce n'è poca ti tocca alzare il rendimento per trovare compratori del tuo debito. È scesa il rendimento medio, pensate, è crollato dal 5% che valevano su base lorda annuale i bot spagnoli a 3 mesi, sono crollati all'1,7%, e anche il bot a 6 mesi spagnolo, da un 5% di rendimento lordo annuo, è crollato al 2,4%. È un'ottima notizia per la Spagna e speriamo che sia anche un'ottima notizia per tutti i paesi con debiti scricchiolanti. Il ministro Fornero è tornato a parlare anche oggi, già oggi ha aperto tutte le pagine dei giornali, ha detto che bisognerebbe riuscire ad aumentare i salari perché sono bassi e non è cosa che ci sfugge, conosciamo il divario nella distribuzione dei redditi che è cresciuto negli ultimi 15-20 anni, la mia sensibilità è totale, dopodiché le cose bisogna cambiarle. E sull'articolo 18 è tornato, ha detto che dà disponibilità piena al dialogo con i sindacati, ma che non ci possono essere cose che sono terreni inesplorati, ossia altri direbbero tabù, come ha detto la Marcegaglia ieri. La risposta è arrivata oggi dal vicepresidente di Confindustria Bombassei, che sui salari ha detto: sì, i salari sono, può darsi che siano un po' più bassi del resto d'Europa, però il problema è il costo del lavoro, che è molto più alto. Il costo del lavoro è quello che costa un dipendente a un'impresa, il salario è il netto che il dipendente percepisce, la differenza si chiama cuneo fiscale, noi obiettivamente abbiamo un cuneo tra quello che costi tu all'impresa e quello che prendi effettivamente in busta paga, che è tra i più alti, se non il più alto in Europa. E sull'articolo 18 Bombassei ha detto: sì, il confronto non è solo su questo, ma visto nella sua complessità è chiaro che se si parla solo di articolo 18 si comincia male. Anche il sindacato però esprime le cose con un po' più di serenità. A me sembra, vabbè, un richiamo al sindacato, ma anche un indiretto richiamo al ministro. Io ieri me l'ho permesso di dire: insomma, hai appena fatto una manovra sulle pensioni che il paese deve digerire, c'era ieri lo sciopero del pubblico impiego, partire subito con, rievocando l'articolo 18, non che non se ne possa parlare, ma è il tempismo che mi lascia personalmente perplesso, ministro. gli edicolanti, e qui devo dare anche alcune risposte ai numerosi messaggi che sono arrivati su Facebook, sulla pagina di Focus con la mia Facebook. Allora, primo aspetto, nessuno ha detto che i prezzi dei giornali calerebbero se ci fossero orari flessibili negli edicolanti. Lo sappiamo tutti che i prezzi sono imposti dall'editore. Nessuno ha detto che gli edicolanti lavorino poco, né che non sia un lavoro usurante, che non sia un lavoro fatto anche di levatacce e con orari lunghi. Abbiamo solo detto, ma potevo usare l'esempio dei barbieri e dei parrucchieri, cioè che in questo paese le varie categorie hanno il giorno o la mezza giornata fissa di chiusura, nessuno la vuole levare, ma ci mancherebbe, ma con orari liberalizzati e flessibili, come avviene in altri paesi all'estero. Ci sarà l'edicolante che chiude la domenica pomeriggio e quello che apre la domenica pomeriggio, ci sarà il parrucchiere che chiude il lunedì pomeriggio, c'era quello che... Non è così che cambi l'economia, ma il cambio culturale, permettetemi, è portare al centro non sempre e non soltanto la categoria professionale, avvocati, edicolanti, farmacisti, tassisti, giornalisti, ma porre al centro il cliente consumatore. La flessibilità negli orari non vuol dire lavorare in più, vuol dire non chiudere tutti nello stesso momento, non essere aperti tutti con lo stesso orario, tutto qui. Andiamo avanti. Firmato oggi l'accordo a Roma al Ministero dei Trasporti, l'accordo tra Italia e Francia sulle per realizzare la Torino-Lione, 8,2 miliardi di valore. L'intesa è stata raggiunta nel corso della commissione intergovernativa italo-francese avviata dal ministro Corrado Passa. E anche oggi abbiamo di che raccontare questa crisi in maniera con spigolature, angolature anche in alcuni casi, che secondo me delle volte però dicono più di quanto non possono dire alcune analisi. Ieri, a mio avviso, era bellissima l'idea del Parlamento britannico, della Camera dei Comuni, di affittare alcuni locali a feste private. Sperano di incassare dai 12 milioni di sterline l'anno. Mi ero permesso di suggerire anche ai nostri parlamentari, visto l'ottimo servizio della buvette e del ristorante alla Camera e al Senato, potrebbero affittare alcuni locali per feste private e ridurre i costi della loro politica. Ma come vedremo adesso, non è sempre Roma, anche le regioni. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. No party per Wall Street, perché siamo tutti molto preoccupati di questo. Le tradizionali grandi feste organizzate dalle maggiori banche d'affari americane, ma anche londinesi, feste spettacolari, venivano affittati interi musei, interi palazzi, non sembrano più alla moda. A 3 anni dalla crisi finanziaria sono ancora al bando. Il timore in realtà non è, e questo lo dice lunga anche su Wall Street, non è un moto di risparmio e di etica, il timore di essere molto criticati, di una pioggia di critiche, perché le feste, solitamente organizzate appunto alla grande, si affiancherebbero ai licenziamenti in atto, e quindi c'è stato questo rigurgito, se non di sensibilità, quantomeno di pudore, da parte di Wall Street. Per il quarto anno consecutivo Goldman Sachs, Morgan Stanley hanno cancellato i party natalizi, così come JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America hanno fatto lo stesso. Invece il gigante degli hedge fund speculativi Bridgewater ha affittato un'arena da 10.000 posti per il suo party, grazie ai soldi che ha guadagnato anche speculando sui debiti europei, aggiungo io. Royal Bank of Canada ha organizzato una festa a New York con 2.000 persone nel Chelsea Piers, area molto esclusiva di New York. Più sottotono il party della più grande società di private equity al mondo, Blackstone Group, un modesto gala al Metropolitan Museum of Modern Art, quello dell'anno scorso, è diventato oggi una festa molto più ridotta nella sala del World of Astoria. E tutti noi siamo solidali con le banche d'affari americane che devono rinunciare di nuovo alla festa di Natale. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E invece, se a Roma, Milano, dovunque registriamoci, segnalate negozi vuoti, negozi anche più modaioli, molto molto disertati dai clienti, non è così per Tiffany, quella del film, quella di collezione da Tiffany con Audrey Hepburn e soprattutto il romanzo di Truman Capote, perché è presa d'assalto a New York, un'attesa media di 30-40 minuti, quando va bene, ma anche 2 ore. Sostengono non solo i proprietari di Tiffany, ma in generale chi osserva il fenomeno, che in realtà fare la coda da Tiffany paghi, perché spendendo anche solo 200 euro o meno di 200 euro, beh, si fa una gran bella figura. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E poi, dicevo, non solo il Parlamento nazionale, anche le regioni non scherzano. Abbiamo appena terminato di fare i complimenti due settimane fa al governatore della regione Lazio, Poverini, per aver risolto il problema dell'ospedale di recupero per i bambini e non solo, anche adulti che hanno problemi psicomotori, Santa Lucia. E adesso scopriamo che il Consiglio regionale del Lazio, composto da 71 membri, conta ben 17 gruppi consiliari, 4 composti da due soli consiglieri, pensate, 8 gruppi composti da un solo consigliere, cioè si riunisce lui, si vede, si contesta, si critica, si dà ragione, e il presidente di un gruppo, anche quando è da solo, ha diritto a un'auto di servizio, al telefonino e a ben 7 collaboratori, oltre a un'indennità supplementare di 890 euro. Allora, lo scorso 16 novembre il Consiglio regionale del Lazio ha votato una norma per arginare il moltiplicarsi dei gruppi, però tutto nella prossima legislatura. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. (800) 24 00 24 per le domande. Mi raccomando, non risposte a casi singoli sugli effetti di questa manovra finanziaria. Anche domani Salvadanaio raddoppia, come ha raddoppiato oggi. Domande di scenario in generale sulla tenuta dell'euro, sulla ricapitalizzazione delle banche, sull'andamento dei rendimenti, dello spread, i temi classici di questo programma. Però partiamo anche con una buona notizia in un periodo, in uno scenario negativo. Sappiamo tutti che l'anno prossimo l'Italia, se va bene, farà meno 0,6, se va come prevede il Centro Studi Confindustria farà meno 1,5%, quindi recessione acclarata, stagnazione in Germania. Eppure il Centro Studi e Ricerche di Intesa San Paolo ha, come sempre, monitorato, si chiama monitor l'indagine dei distretti industriali, e ha scoperto che nel terzo trimestre del 2011 l'export dei 140 distretti industriali italiani, ne abbiamo parlato decine di volte, dal legno arredo alla rubinetteria, al pellame, al piastrelle, la ceramica e quant'altro, insomma nel terzo trimestre è cresciuto l'andamento dell'export dell'8,2%, un incremento superiore anche a quello delle aziende tedesche, più 7,5 i tedeschi, più 8,2 i nostri imprenditori, spesso piccoli e medi, bravi, bravi loro dipendenti. Crescono le vendite all'estero, soprattutto per i settori metalmeccanico, moda, abbigliamento e agroalimentare, e bene anche nei mercati dove ci sono i soldi, e cioè Russia più 15%, Brasile più 30%, Corea del Sud più 33%, Romania lì, insomma, è più, non so se sia un problema di soldi o di dinamiche di export, più 21%, rallenta l'export sulla Cina. Dottor Fabrizio Guelpa, che è responsabile dell'Ufficio Studi Industria e Banche del Gruppo Intesa San Paolo, buonasera. Buonasera a lei. Ed è lei materialmente che ha, insomma, messo assieme e analizzato questi dati. A cosa è dovuto questo forte incremento, superiore anche a quello tedesco, del nostro export? Se dobbiamo sintetizzare, saranno molti motivi, ma... E negli ultimi anni le nostre imprese hanno investito molto, il tasso di innovazione è aumentato, la ricerca e sviluppo è aumentato, sono aumentati i brevetti, è aumentato anche il contenuto qualitativo, quindi ci sono delle buone ragioni che giustificano queste performance. Sono tra l'altro un po' in rallentamento con la congiuntura che si sta raffreddando, un anno fa il ritmo di crescita dell'esport era prossimo al 20%, quindi questo 8,2 va anche visto in questo contesto. Il problema è che continuiamo a avere un'industria polarizzata con risultati buoni che sono dati da imprese eccellenti, e ci sono ancora molte imprese che sono arretrate, che sono un po' da zavorra a risultati complessivi, quindi siamo un paese che cresce relativamente poco, non perché siamo tutti poco competitivi, ma perché solo una parte è competitiva. Ma una cosa, quando noi vediamo che il dato sull'export verso la Cina è in calo, allora va benissimo in Brasile, perché sappiamo che i nuovi ricchi sono Brasile, Cina, Russia, India, alcuni ci aggiungono anche il Sudafrica, ma insomma andrei più cauto lì, ma anche come volumi. Ma Russia più 15, Brasile più 30, sono ottimi dati. Secondo lei come mai in Cina c'è stato un rallentamento? Cioè all'interno di queste dinamiche è possibile cogliere anche qualche criticità? Sulla Cina viene innanzitutto detto che ci sono due Cine, c'è la Cina mainland che oggettivamente è in rallentamento perché sta rallentando complessivamente la crescita del paese. Noi siamo abituati a un paese che cresce moltissimo, adesso sta crescendo un pochino di meno, si stanno assestando su delle attese di minor crescita strutturale, comprando da noi soprattutto macchine e stanno rallentando, però c'è anche Hong Kong, e grosso modo le nostre esportazioni vanno metà su Hong Kong e metà sulla Cina. Hong Kong continua ad andare molto bene, continua a crescere attorno al 20%, quindi uno scenario misto. Dobbiamo tenere presente che sono mercati importantissimi che crescono, rappresentano ancora adesso però tutto sommato solo il 5%, quindi ci sono meno di quello che noi facciamo ad esempio sulla sponda sud del Mediterraneo. Dottor Guec, ci sono adesso le informazioni sul meteo, però io poi vorrei brevemente concludere sui tre settori che voi avete messo in evidenza: metalmeccanico, e quindi Brescia con i metalli, Lumezzane con i rubinetti, Lecco con la metalmeccanica, la meccanica strumentale Vicenza, le caldaie, l'istituto delle caldaie a Verona. Poi c'è il settore moda, e anche qui il polo fiorentino della pelle e calzatura d'Arezzo, il tessile a Biella, la maglieria a Carpi, la concia da Zignano, provincia di Vicenza, la calzatura di Fermo e anche la Riviera del Brenta, e poi il tessile abbigliamento di Prato. E l'agroalimentare qui, soprattutto Langhe, Monferrato, il polo dolciario di Alba Cuneo, il vino veronese. Le caratteristiche che hanno questi distretti che più di altri si sono distinti nell'export, e le previsioni sul 2012. 349-238-6666 per i vostri sms, 800-24-00-24 come numero verde. Se aveste anche domande per il dottor Guelpa, le prendiamo volentieri. Meteo. 17:36 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. 800-24-00-24 per le vostre telefonate. 349-238-6666 per i vostri sms. Telefonate solo oggi e domani, non su consigli specifici, c'è Deborah Rosciani con Salvadanaio, ma su temi più di scenari complessivi tipici di questo programma. Vorrei concludere con il dottor Guelpa, a parte che c'è anche una telefonata per il dottor Guelpa, adesso la prendiamo, e quindi mi riferisco al rapporto che di monitoraggio, si chiama Monitor, l'analisi che come ogni trimestre viene presentato da Centro Studi e Ricerche di Intesa San Paolo, in cui i distretti industriali italiani bene si sono comportati e hanno battuto complessivamente come aumento dell'export anche le aziende tedesche, più 8,2 l'export dei distretti in media, più 7,5 l'export delle aziende tedesche. Il 2012, dottor Guelpa. Anzi, mi scusi, correggo, avevo chiesto prima sì, qualche giudizio sui settore metalmeccanico, moda e agroalimentare. Sì, direi che insomma sono al proprio interno sono molto diversi, però volendo un po' estrarre dei temi comuni, cioè la meccanica è sempre stata forte per via di servizi, insomma, per il prodotto cosiddetto tailor made, le macchine fatte apposta. Io credo però la novità, quello che ha cambiato un po' il servizio negli ultimi anni è una massiccia attività nel campo del servizio, dell'assistenza. Di assistenza poi in loco. Che cambia radicalmente, che fidelizza il cliente, che gli permette di vendere oggi ma di prendere le basi per vendere anche domani. Questo, soprattutto su clienti nuovi che prima non si conoscevano, possono essere i cinesi, gli indiani. Questa è la meccanica. Poi avevamo l'alimentare. Noi siamo un paese, apparentemente l'alimentare sono beni tradizionali, però c'è moltissima innovazione. Noi siamo un paese che è riuscito a investire moltissimo anche sul biologico, siamo il paese europeo che ha più biologico, vero. Biologico, quindi sono prodotti che tirano. C'è questo apprezzamento del Made in Italy che riguarda anche l'alimentare. Molte potenzialità, il punto debole è che abbiamo una struttura distributiva all'estero abbastanza scarsa. Cioè non ci sono molte grandi catene italiane all'estero, e quindi non è un... Le catene siamo invasi dalle catene. Esatto, e le catene francesi, con buona pace di Auchan e Carrefour, spingono anche i loro prodotti, sui prodotti alimentari, poi spingono prodotti francesi. Se tu hai l'accordo con la grande catena, è meglio. Da noi quelle in Italia non sono tantissime, ma soprattutto hanno poca presenza all'estero, per cui non riusciamo ad avere grandi, i nostri veri canali si chiamano ancora ristoranti italiani all'estero. E ha fatto bene a ricordare l'investimento in sul biologico, oltre che sul packaging, sul marketing dei prodotti, la qualità dei prodotti. Per inciso, l'Italia è un paese in cui adesso non vorrei menare sfortuna, però in cui non vi sono stati scandali alimentari. Non mi citate il metanolo, che erano due banditi criminali, ma gli scandali che hanno travolto il settore agroalimentare in Europa, dalla Gran Bretagna alla Germania, con puntate anche in altri paesi, grazie alla legge italiana, ai controlli e a questa attenzione, non vi sono mai stati. Quindi assistenza comunque in loco anche in Cina e in India per la metalmeccanica, grande concentrazione e capacità di ricavarsi posizioni non di nicchia ma di qualità nell'agroalimentare. La moda? E poi c'è la moda, e io credo che oltre insomma la qualità, i nostri prodotti sono diversi dagli altri, credo che il fatto che spinge la competitività e essere riusciti a creare una un equilibrio tra quanto fatto all'estero, puntando sui costi, e quanto fatto direttamente in Italia. Qualche paese ha abbandonato l'industria in loco, ad esempio la Francia, la moda francese compra tutto dall'esterno, in parte anche dall'Italia. Noi siamo riusciti a mantenere una capacità produttiva, quindi conoscenze, un controllo dei processi, e utilizzando però anche i vantaggi di costo di fare dei pezzi, delle componenti all'estero. Allora, dottor Guerpa, resti con noi perché ho ancora la domanda su 2012, ma c'è Lorenzo da Milano che è il primo ascoltatore per questi due giorni particolare di Focus Economia. 800 24 00 24, il numero. Lorenzo, buonasera. Buonasera, spero di aver vinto qualcosa visto che sono il primo. I complimenti alla trasmissione sono ovviamente scontati. Grazie. Dunque, io lavoro da 26 anni nell'industria italiana e sono giunto, un po' per esperienza, un po' per quello che ho studiato, alla conclusione che l'Italia cresce in maniera micro perché ha delle imprese micro. La soluzione, secondo me, per crescere veramente è obbligare queste imprese a unirsi, non avere 10 microimprese da 10 dipendenti cada una, con 10 titolari, 10 amministrazioni e così via. Ora, un'idea, secondo me, potrebbe essere obbligarle ad aumentare i loro dipendenti. Come? Defiscalizzando una parte dei loro utili a coloro che raddoppiano i dipendenti a tempo indeterminato. Un esempio semplicissimo. Prendiamo l'anno solare. Nel 2011 raddoppi i tuoi dipendenti da 10 a 20. Se nel 2012, quando presenterai la dichiarazione dei redditi, sarai ancora a quel livello di dipendenti o più alto, avrai degli sgravi fiscali in funzione di scalini. Se arrivi a 20 dipendenti, entro i 25 ti defiscalizzo il 20, fino a 50 defiscalizzo il 30 e così via. In questo modo da una parte li si obbliga ad accorparsi, dall'altra si evita che questi si accorpano, ottengono il vantaggio fiscale e poi si ridividono di nuovo, altrimenti... No, le vuole una fiscalità, grazie Lorenzo, una fiscalità di vantaggio, però poi verificata sull'investimento a medio termine per le imprese. Allora, due soli commenti miei. Obbligare qualcuno non è mai bello nella vita, cioè. Obbligati sono stati pensionati in questo momento la riforma della Fornero, sono misure eccezionali, l'obbligo dell'aumento dell'IVA. Io più che verso l'obbligo, poi c'è l'obbligo ad assumere, è una categoria molto aleatoria. No, creare le condizioni fiscali perché ci si aggreghi, quello sì, e c'erano già per le elevate del ministro Tremonti nel secondo governo Berlusconi, vado a memoria, però potrei dire un'inesattezza, gli incentivi fiscali sugli utili delle imprese che si univano. È indubbio che le imprese italiane siano piccole, anche qui però attenzione, la differenza è tra piccolo e nano. Lo dico spesso, mio figlio, se gli dici che è nano si arrabbia, se gli dici che è piccolo ha ragione. E cioè, se tu puoi essere piccolo, vuol dire che tu hai le dimensioni giuste, magari lavori in una nicchia, tutto sommato, o sei un subfornitore, le tue dimensioni sono piccole ma vanno bene così. Nane vuol dire che tu hai un problema e non reggi quello che è la sfida perché le tue dimensioni non sono quelle corrette. Ultimo aspetto però, oltre a obbligare a fondersi e assumere, si possono anche creare situazioni di rete in cui tu vai a condividere i costi fissi, i costi per la pubblicità e il marketing, i costi per le fiere, quindi le missioni all'estero, cioè almeno riduci quelli che sono costi che devi sopportare da solo. Però, dottor Guelpa, questo delle dimensioni è un problema. Per troppi anni abbiamo detto a questo paese che piccolo era solo bello. sicuramente un problema, ma io credo, sono d'accordo con lei che è, qualche, cioè, è sostanzialmente difficile obbligare le imprese ad assumere, e anche credo sia abbastanza difficile dare degli incentivi in funzione dell'occupazione. Però questo governo ha fatto una cosa che sostanzialmente porta a risultati simili, con quello che si chiama l'ACE, l'aiuto alla crescita economica, si dice all'azienda: se voi mettete dei soldi, questi soldi che mettete hanno una tassazione agevolata, e se uno mette dei soldi nell'azienda evidentemente perché vuole crescere, quindi è finalizzato proprio a questo, di cambiare la tassazione dando dei vantaggi a chi ha delle prospettive di sviluppo e quindi anche di creare come ricaduta anche occupazione. Dottor Guelpa, mi dia in una battuta le previsioni sul 2012, queste caratteristiche positive dei nostri distretti terranno oppure il rallentamento complessivo si farà sentire anche lì? Rallentamento complessivo dell'economia c'è, non ce lo possiamo nascondere, non solo in Italia ma anche in Europa, sono le uniche aree del mondo che continueranno a crescere, saranno quelle extraeuropee. Io credo che sia sbagliato credere che la congiuntura sia determinata, la congiuntura è tutta da costruire con le azioni delle imprese, con le azioni della politica, tutti possono fare la loro parte. Il governo, insomma, credo che abbia in cantiere moltissime cose, su alcune ci sono già delle indiscrezioni, ma possono fare molto anche le imprese. Direi che la cosa principale, se si riuscisse a cooperare per stimolare l'innovazione, noi possiamo essere competitivi se innoviamo, magari non andrà benissimo il 2012, ma se abbiamo fatto degli sforzi. Però le politiche sulla crescita, mi permette di dire che questo governo, mi auguro che abbia anche altro, perché se le politiche sono solo sui tagli, sul controllo della spesa, quelle sono politiche di emergenza. Adesso vogliamo vedere, e lo aspettiamo, il governo sulle politiche per la crescita, perché anche Tremonti, voglio dire, era bravo a tenere i soldi chiusi in scarsella, cioè nel portafoglio, però poi le politiche per la crescita servono, e per esempio quelle che lei citava, vantaggi fiscali per chi investe, per chi si fonde, per chi aumenta le dimensioni. Poi c'è la politica europea, e lì vediamo se i tedeschi vogliono mangiare il panettone anche l'anno prossimo oppure ognuno si mangia il suo dolce natalizio. Grazie e buon Natale, buon anno a questo punto. Dottor Fabrizio Guelpa, responsabile dell'Ufficio Studi di Industrie e Banche del Gruppo Intesa San Paolo. Adesso arriviamo anche alla borsa, più 2,87% la chiusura, più che buona, Parigi più 2,70, Francoforte più 3,11, Londra un po' più al palo più 0,95, grazie all'ottima asta spagnola, domanda altissima, rendimenti in netto calo. E ne parlo subito con il nostro prossimo ospite, Moria Longo del Sole 24 Ore, che scrive di Spagna, scrive di obbligazioni, scrive di tutto. Buonasera Moria. Buonasera a tutti. Vedo che però ci sono già altre domande, allora guardiamo, visto che oggi lo spazio è più per gli ascoltatori, mi taccio io. Domenico dalla provincia della Spezia, e poi Karim da Parma, poi c'è anche Tiziano da Bari. Domenico dalla provincia della Spezia, buonasera. Buonasera signor Barisoni. Buonasera, buonasera a lei. Naturalmente per la trasmissione, come si usa dire. E guardi, proprio capita il momento proprio giusto della borsa, eccetera. Eccoci. Cioè il problema, cioè io voglio sentire un suo parere, perché è una cosa che veramente mi sta dando molto fastidio, diciamo, nella comunicazione, no, non nella sua trasmissione, sia ben chiaro. E il discorso è questo: si sta parlando ad oltranza di spread ad oltranza, e non si mette in evidenza come la cosa più importante sono i rendimenti, che sono quelli, diciamo, verso i quali noi, diciamo, dobbiamo riferirci per dire quanto dobbiamo pagare di interesse. Il punto di riferimento, cioè il confronto col Bund tedesco, è un qualcosa che non è uno zero fisso, ho capito, ho già capito la domanda. Ecco, ma mi scusi una cosa, diciamo, sì. E poi la lascio. Ma ci mancherebbe. Il discorso è questo, che ho avuto l'impressione, mi dica lei se sbaglio, che guardi che anche a livello di comunicazione in televisione eccetera, anche tra politici, si combattono su spread, spread. Quando in realtà spread. Diciamo lo spread è la seconda battuta, Io che sento Bloomberg Television, dice praticamente lo spread lo sento nominare di quando in quando. Ecco. Allora, no, ho capito benissimo, guardi, con massimo rispetto, ma sulla preparazione e la cultura economico-finanziaria dei nostri politici, insomma. Alcuni ce l'hanno, altri fanno finta di averla, altri non ce l'hanno e ne fanno finta di averla, c'è chi lo chiama lo spread, però lei ha assolutamente ragione, siccome va leggermente spiegato, mi lascia lanciare le informazioni per chi è in viaggio, poi anche con Moria Longo, è verissimo, la cosa più importante è quello che rende un titolo di Stato, cioè quanto costa a te indebitarti, non la differenza con la Germania. Paradossalmente noi potremmo avere uno spread in riduzione perché la Germania inizia a avere problemi sul debito e va al 3-4%, noi magari andiamo al 9, lo spread si riduce perché la differenza fa 5, però per noi è molto peggio perché ci costa il 9% andare a rifinanziare il debito. Traffico prima. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Moria Longo, se siamo d'accordo che lo spread, come diceva l'ascoltatore, non è perché lo spread è la differenza con la Germania, se la Germania salisse magari si riduce lo spread, ma sali anche tu. Il vero punto è quanto ci costa indebitarci. Perché si cita lo spread così tanto? Si cita lo spread per questo motivo, perché l'Italia insieme alla Germania e a tanti altri paesi, 17 altri paesi, è nell'Unione Europea. Abbiamo tutti la stessa banca centrale che per tutti fissa gli stessi tassi di interesse, non abbiamo tutti lo stesso tasso di inflazione, ma più o meno diciamo siamo sulla stessa tipo di grandezze, e quindi il fatto che l'Italia paghi molto tassi di interesse molto più alti rispetto alla Germania crea un grossissimo problema non solo di pagamento dei tassi di interesse ma di competitività. Perché? Perché non solo è lo Stato che paga tassi di interesse molto più alti, ma anche le banche italiane pagano tassi di interesse più alti delle banche tedesche, proprio perché sono italiane, e quindi a loro volta finanzieranno le imprese a tassi di interesse più alti rispetto alle imprese tedesche. Allora, il fatto che l'Italia paga tassi di interesse così elevati rispetto alla Germania è un handicap per l'Italia, perché gioca nello stesso campo da gioco della Germania, con la stessa moneta. Con la stessa moneta, banca centrale, nello stesso campo da gioco. Si vede che è stato un allievo di Salvadanaio. Mi sembra di essere tanto Salvadanaio con queste telefonate. Comunque, no, giustissimo, perché quello che interessa il paese è chiaramente quanto ti costa trovare finanziatori per il tuo debito, il rendimento delle obbligazioni. Quello che però interessa il paese dell'area euro è quali svantaggi hai, visto che giochi nello stesso campo da gioco, che si chiama euro. Infatti nessuno va a vedere la differenza tra il rendimento nostro e quello giapponese o quello americano, perché sono valute diverse, politiche diverse. Nella stessa valuta, nella stessa politica, avere differenze così grosse, come, vi faccio un esempio, se un finanziamento che già avviene a Milano costasse il 2% all'impresa e costasse il 10% a un'impresa di Crotone. Ecco, questo è, allora usi lo spread rispetto al finanziamento più basso, perché giocate nello stesso campo e quello è uno svantaggio competitivo. Karim da Parma, buonasera. Sì, buonasera Barisoni, complimenti a lei e a tutta la radio. Grazie, la giro volentieri alla radio, prego. Niente, la mia domanda riguardava velocissima appunto sugli spread. Io ritengo molto molto importante puntare sulla riduzione del debito, perché avremo in conseguenza dei benefici in cascata, come appunto crollerebbe lo spread, di conseguenza le banche riuscirebbero a finanziare le imprese a minore tassi di interesse e di conseguenza si innescherebbe un processo di crescita per tutto il paese. Quindi già da solo puntare sull'abbattimento del debito pubblico innescherebbe tutto il resto. Grazie Karim, ascolto anche Tiziano da Bari, poi diamo una risposta complessiva. Tiziano, buonasera. Buonasera a lei e ai suoi ospiti. Allora, il punto è questo, mi collego naturalmente all'argomento principale che non viene mai a noi, mi sa da ormai da 2 mesi, questo non so se è un bene o un male, per dirle questo, se ne è parlato di pochissimo, c'è stata una mezza proposta per quanto riguarda le imprese, cioè i crediti delle imprese da pagare appunto con i CCT, poliennali, eccetera. Perché non pensare di fare un lavoro molto più vasto, e cioè che sarebbe quello di pagare una percentuale dei crediti delle imprese e non solo, anche una parte degli stipendi pubblici da poter eventualmente girare sul privato a livello del 10-15% con CCT, sarebbe come una specie di prestito. Sì, il ministro Passera aveva aperto il ministro Passera aveva aperto su questo, visto che ci sono 60 miliardi circa di euro che lo Stato, la pubblica amministrazione locale o nazionale deve alle imprese, dare magari un'obbligazione vincolata, cioè se tu la tieni fino a scadenza hai il rendimento garantito, se poi te la vuoi vendere durante i 5 anni o i 2 anni, beh, t'arrangi, lì dipende da quello che è il mercato. Moria Longo, hai due minuti per rispondere alle due domande. Beh, la prima domanda su quella debito, signora insomma, che diceva servirebbe l'abbattimento del debito. Karim non era una signora, però se vogliamo cambiargli così manu militari il sesso, non penso che sia d'accordo. Comunque, prego. No, niente, sono confuso. Queste stesse parole io le sento tutti i giorni sul mercato. Io tempo fa parlavo con un gestore di un hedge fund americano, diceva proprio la stessa cosa: l'Italia ha un debito pubblico troppo alto, dovrebbe abbatterlo. Loro mi dicevano addirittura di 300-400 miliardi. È vero questo, non è facile farlo, basta vedere gli sforzi che facciamo noi italiani per una manovra da 30 miliardi, figuriamoci. Ovviamente... E poi se aumentano i rendimenti del tuo debito, aumenta anche il tuo debito, perché noi paghiamo il problema... 70 miliardi di interessi, più aumenta gli interessi, più ci escono soldi. Esattamente, prego. Quindi la riduzione del debito è sacrosanta, è il nostro vero obiettivo, però non è una cosa che si riesce a fare in brevissimo tempo, bisogna impostarla e farla nell'arco degli anni. Primo punto. Secondo punto, pagare i dipendenti pubblici in bot potrebbero essere la soluzione. Io suggerirei quantomeno quelli oltre un certo livello di reddito, per quelli sotto non mi sembrerebbe il caso. Magari parlamentari in bot, visto che rappresentano lo Stato, potrebbe avere un senso. Cioè, la legislatura dura 4 anni, gli dai le stock option in versione statale. No, ma dai un BTP a 5, no, perché sarebbe troppo lunga. Glielo dai a 2 tranche a 2, almeno devono tenere 2 anni, almeno... Così, diciamo, anche loro hanno a cuore l'interesse del paese, già ce l'hanno, ma ce l'avrebbero ancora di più. Adesso ho il GR 800 24 00 24 per il numero verde, 349 238 6666 per i vostri sms, lo spread, l'incrocio tra spritz e spread, può essere dopo il GR. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa puntata di Focus Economia, in cui sia oggi che domani, in occasione delle due giornate speciali che Radio 24 dedica alla crisi, ancora di più, ricordo che potete intervenire in diretta 800 24 00 24. Ancora vedo che c'è un ascoltatore che dice: ma era meglio il programma quando non intervenivano gli ascoltatori. Mamma mia, vi fate la guerra tra di voi, ma dai, è solo oggi e domani, poi torniamo. La borsa invece. Allora, la borsa oggi vi dovete accontentare di me, perché Radio Core è in assemblea sindacale, ma comunque i temi li abbiamo già annunciati prima. L'ottimo andamento dell'asta dei bot spagnoli, rendimenti in netto calo, ottima la domanda. Buona l'apertura di Wall Street e poi anche il fondo, il via libera al fondo del Fondo Monetario Internazionale per il salvataggio dei paesi in difficoltà, 200 miliardi. Tutto questo ha contribuito a un più 2,87% nel finale per Milano, più 2,70% per Parigi, più 3% per Francoforte, più 1% per Londra, con l'euro a quota 1,31. Ancora tra i titoli, in generale in Europa vanno bene tutti i titoli più ciclici, non so, Saint-Gobain, Lafarge in Francia più 5, più 4%, bene anche tutti i titoli legati alle costruzioni in Germania. In Italia l'Italia non fa eccezione, perché al di là dei bancari abbiamo visto andare bene anche i tracimenti in pregilo più 4,70%. Per quello che riguarda le banche, molto bene UbiBanca più 8,60%, Popolare di Milano più 7%, Unicredito più 6,30%, Mediobanca più 5,80%, Intesa San Paolo più 5,80% anch'essa. Titoli industriali, Buzzi Unicem, diciamo i costruttori, più 5,1%, e ancora Finmeccanica più 5,20%, Fiat, intesa come Fiat Auto, più 7% oggi, bene l'andamento a livello generale in Europa. Prismian, l'ex Pirelli Cavi, più 6,25%, Pirelli più 5,51%, e poi anche Steam Microelectronics più 4,5%, come Tozer, Automatica, il 3,70% lo guadagna Fiat Industrial, quindi camion e trattori, Exor più 3,40%, Salvatore Ferragamo più 3,30%, sbarcata ieri nell'S&P MIB, Monte dei Paschi più 3,30%, Atlanti anch'essa più 3,30%, Luxottica più 3,20% come Autogrill, il 3% lo guadagna Ansaldo STS, il 2,60% il Banco Popolare e il 2,5% la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Azimut più 2,20% come Tenaris e Generali. Di negativo praticamente non c'è, c'è solo Diasorin, meno 0,80%, Terna invariata. E adesso riprendiamo con le vostre telefonate e con i nostri prossimi ospiti. 800 24 00 24. Ringrazio il vice direttore del Sole 24 Ore Alessandro Praterotti per averci raggiunto in studio. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi, te, buonasera agli ascoltatori. E grazie anche a Guido Gentili, ex direttore del Sole 24 Ore, editorialista del Sole 24 Ore attualmente. Buonasera Guido. Buonasera a voi. Non so se vi conoscete tu Alessandro. No, vi... io Guido Gentili. Vabbè, dai. Andiamo avanti. Allora, le telefonate. Alberto da Bologna, e poi vorrei sentire Giulio da Pavia e Walter da Pesaro. Mi raccomando, lo ripeto ancora una volta, Salvadanai una cosa, Focus Economia un'altra, temi generali di scenario sulle banche, la finanza, la manovra del governo, non consigli pratici e individuali. Alberto, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Eccoci. Ringrazio l'opportunità di partecipare alla vostra trasmissione. Dunque, io ho una domanda molto semplice e veloce. Io vi chiedo, ma se l'Islanda è uscita dal Fondo Monetario Internazionale, ha la sua moneta e si sta riprendendo benissimo, ha fatto delle riforme, mi pare da quel poco che mi sono documentato, delle riforme costituzionali abbastanza importanti, si è ripresa molto bene uscendo dal Fondo Monetario Internazionale. Sì, e non pagando i debiti però anche. Ho capito, i debiti però chi li aveva vabbè, no, comunque, le banche no, aspetti un attimo, mi faccia la domanda così li raggruppo che andiamo più veloci. Mi faccia la domanda però Alberto. No, la domanda era appunto se l'Islanda è uscita dal perché fondo non facciamo così anche noi? E si sta riprendendo, perché non possiamo fare così anche noi? Le do una risposta Alessandro Praterotti tra un minuto, perché volevo sentire anche Giulio dalla provincia di Pavia e Walter da Pesaro e poi dividerle tra Praterotti e Gentili. Giulio, buonasera. Buonasera dottor Barisoni. E contenta la trasmissione. Niente, io voglio semplicemente portare la mia esperienza per quanto riguarda la mia attività. Grazie al mio lavoro ho a che fare con lo spaccato della società e vedo la situazione reale delle famiglie. Purtroppo in questo momento io ero in una zona ricca d'Italia, io sono in una zona prospera che è l'Omellina, in provincia di Pavia, e soldi non ce ne sono assolutamente più. Quindi io, seguendo anche i suoi discorsi, le sue opinioni delle giornate precedenti, sono d'accordo con lei quando a questo punto la patrimoniale era necessaria. Okay, chiamiamola patrimoniale, però si prende un una tantum in base al reddito della gente, però in questa maniera fece pagare anche gli evasori, perché colpire la persona fisica, ma a questo punto i soldi servivano veramente. Ho capito. Una grande quantità di denaro per addrezzare la barca. Beh, le posso solo chiedere che lavoro fa in una battuta? No, capito, mi scusi. Che lavoro fa in una battuta? Io gestisco, sono contitolare di un'autoscuola. Ok, perfetto. Abbiamo a che fare con tutta la gente, dall'operaio al figlio dell'ingegnere. Sì. Non è che la macchina, la patente di guida sia un'esclusiva, diciamo, dei ceti più o meno abbienti. Grazie molte, ho capito la domanda sulla patrimoniale e la girerei anche a Guido Gentili. Giulio della provincia di Pavia, l'abbiamo già fatto. Walter da Pesaro, grazie. Sì, buonasera. Si dice che le borse anticipano tutto. Com'è che adesso che si sta meglio di prima, perché perlomeno si sta facendo delle terapie, no? Le borse invece sono più basse di prima. Delle terapie sono in atto, no? Non è che c'è una forte speculazione ribassista per tosare tutte le pecore e quando è tosata l'ultima si riparte a razzo. E si tosa il pastore, non ho capito. No, è chiaro. Si tosa il pastore a quel punto. È chiara la domanda. Le paure sono tante, i rating, insomma, è un déjà vu, mi sembra, ecco. Allora, grazie Walter. Alessandro Praterotti, io direi la prima e la terza, quindi perché non facciamo come l'Islanda? Cominciamo dall'Islanda. L'Islanda, il nostro ascoltatore pone una domanda legittima, ma dovrebbe ricordare che l'Islanda credo che abbia 2 o 3 milioni di abitanti. No, 300.000, scusa. 300.000, non so, una cosa. La provincia di Vicenza come PIL pesa molto di più. Ecco, poi non solo, l'Islanda è stata salvata da un intervento congiunto del Fondo Monetario Internazionale e della Gran Bretagna, che si è fatta carico del debito che era esploso a causa del crack delle banche. Quindi questo per rispondere sull'Islanda. Per quanto riguarda noi non è possibile, perché la quantità, l'impatto che potrebbe cadere sull'Italia da un'eventuale uscita dell'euro sarebbe così devastante, sia per i risparmi delle famiglie che per il capitale delle banche, che per sotto il profilo fiscale, sotto tutto ciò che possiamo immaginare come vita economica e finanziaria di un paese, tale da far pensare a un disastro, una sorta veramente di bomba atomica finanziaria che distrugge il paese. Quindi certo, si sta lavorando in Europa per questo. E l'altra invece sul fatto che le borse, nonostante gli interventi, continuano oggi no. Le borse, bisognerebbe che anche qui il nostro ascoltatore guardasse bene l'andamento degli indici. Siamo in rialzo sull'inizio dell'anno, non siamo certamente in rialzo sui massimi che abbiamo visto l'anno scorso, ma sia l'indice Standard & Poor's 500 che l'indice Stoxx sono attualmente in rialzo sull'inizio dell'anno. Le borse non in questo caso non stanno anticipando una ripresa, ma si stanno muovendo in un'altra direzione. Uno, quella della fine dell'anno. La fine dell'anno si fanno i bilanci delle grandi società di trading, bisogna portare dentro titoli a valore, sono acquisti molto forti per abbellire i bilanci delle banche e quindi questo sta dando sostegno al mercato che comunque, diciamo così, al di là degli aspetti più legati al debito sovrano, in questo momento naviga un po' a vista perché non ci sono previsioni chiare di profitto delle aziende. E poi comunque attenzione perché le previsioni dell'OCSE, del Fondo Monetario e del Centro Studi Confindustria sono tutte di rallentamento economico l'anno prossimo nell'area euro. Maquillage anche nei conti, come ricordava Alessandro Paterotti. Guido Gentili, la patrimoniale, che poi insomma veniamo al tema della manovra con poco coraggio e poca fantasia. Ma la patrimoniale non c'è, diceva il nostro... Oddio, c'è l'ICI o IMU? Che è una... In realtà ce ne sono molte, ci sono tante piccole o grandi, a seconda dei punti di vista, patrimoniali in questa manovra. Non è vero che non c'è una patrimoniale, ce ne sono tante. Direi che... basterebbe guardare a che cosa significa la correzione, diciamo, dal lato delle entrate, cioè circa l'88,6% riguarda il 2012 e riguardano, diciamo, proprio le maggiori entrate. Quindi noi abbiamo un problema, l'ascoltatore prima parlava di che non ci sono più soldi, no, in una zona come la Lomellina, eccetera. Ecco, il problema è esattamente questo, dico, io non credo che aumentando ancora il carico e il prelievo fiscale possiamo ottenere lo sblocco dell'economia. Dobbiamo fare qualche cosa di diverso, secondo me non la patrimoniale, ma diciamo provvedimenti per la crescita. Sì, anche se poi sulla parte diciamo che più sfugge al fisco, a mio avviso qualcosa in più si poteva fare. Ma questo è il discorso sui grandi patrimoni sulle grandi ricchezze, non la patrimoniale per tutti. A me l'ICI o IMU non piace perché va a colpire sostanzialmente tutti, là dove sappiamo che la forbice è ben più ampia. Comunque, adesso al traffico, poi l'ultimo grappolo di domande a chi mi chiede ma chi è che fa l'architettura del programma, immagino la scaletta, e chi deve essere il conduttore di solito. Comunque, non c'è un grande fratello qui. Esterno, traffico è 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa puntata speciale di Focus Economia. Allora, vedo altre domande, vediamo di farne il più possibile. All'800 24 00 24, Luca da Udine e poi Claudio da Bologna. Luca, buonasera. Buonasera, scusi, secondo me il problema di fondo è che l'asse produttivo è stato spostato dalle vecchie economie verso i nuovi paesi emergenti, Cina, India, eccetera, e mi chiedevo se c'è un modo, un metodo per riportarlo alle vecchie economie senza per forza schiacciare i diritti conquistati in anni dai dipendenti e diritti e presumo fra poco anche le retribuzioni. Chiaro la domanda. Proprio passare per quella strada. Chiara la domanda, non ho risposto anch'io per lei, comunque poi le giriamo tutte unite. Claudio da Bologna, buonasera. Grazie Luca comunque. Sì, buonasera e complimenti per il servizio che date, perché dovrebbe essere un servizio pubblico questo. Senza canone, mai che nessuno ce lo ricordi. Vabbè. Grazie Claudio, non lo vogliamo il canone. Mi ritengo un giovane imprenditore di Bologna, ho 37 anni e lavoro nell'azienda di famiglia, forse come tanti ragazzi. Mi sono voluto staccare e ho cercato di creare una nuova società con un socio. Mi trovo in una situazione che, ascoltando la vostra radio e ai vari telegiornali, si parla tanto di crescita, di finanziamenti delle banche, tassi di interesse e quant'altro. Ma quello che vi sto notando è che rispetto a quello che viene detto, e nel mondo reale, cioè quando io mi reco in banca per chiedere un finanziamento, cioè è un mondo completamente diverso. Cioè a me mi sono stati negati dei finanziamenti o mi sono state chieste delle garanzie da UFO, cioè una cosa da Marte. Per esempio? Abbiamo creato una SRL nuova, capitale sociale interamente versato di 100.000 euro, abbiamo presentato un piano di fattibilità dopo 13 mesi di studio, le banche ci hanno fatto i complimenti per questo piano, per quanto è stato dettagliato e motivato, ci siamo trovati al momento di firmare il contratto, ci erogano un mutuo di 400.000 euro con un tasso del 7,5 e fin qui ci sta bene. Siamo stati garantiti dalla Eurofidi per il 60% del mutuo. La banca ci chiede il 40% restante in contanti depositati presso una loro filiale, che li possiamo decidere se metterli in botto o in quant'altro. Chiaro la... cioè, allora a queste condizioni, che azienda nuova apriamo in Italia? Allora, prima domanda di carattere più macroeconomico. Attenzione, andare contro la storia è impossibile. Tutti i grandi imperi poi si sono trovati ad avere qualcuno di concorrente. Anche noi negli anni 60 eravamo la Cina dell'Europa. Comunque, Alessandro Praterotti, sul come riportare la produzione. Lì ci sono due strade. Ce n'è una o fare la guerra. No, per carità. Ce n'è una che è seria, al di là degli scherzi che uno può dire, che è l'aumento del costo del lavoro in Cina e in Asia. Teniamo presente che qua stiamo giocando, le imprese stanno giocando su un differenziale di prezzo enorme che riguarda il costo del lavoro. Se, come sembra, gli stessi lavoratori cinesi sono stanchi di essere pagati 2-3 dollari l'ora, vogliono dei diritti come hanno ottenuti e combattuto i nostri lavoratori in Italia attraverso il movimento sindacale, questo cambia lo scenario in prospettiva. Certo. Cioè, ci vorranno 20 anni, signori, non stiamo parlando di una cosa che accade da un giorno all'altro, ma sicuramente quel differenziale di costo del lavoro è destinato a chiudersi. Perché? Perché chiederanno sempre di più anche gli operai cinesi man mano che si qualificheranno. Quindi prima strada, far sì che, e questo è importante sotto il profilo quando si parla dei diritti umani in Cina, i diritti umani sono strettamente legati ai diritti del lavoratore. Per cui il sostegno che l'Occidente può dare a questi movimenti ha un doppio impatto: uno politico, quello dei diritti umani, ma un altro anche industriale. Detto questo, non, certo non si può campare in questo modo. Bisogna far sì che in Italia, l'Italia, l'Europa, i paesi della tradizione industriale occidentale facciano sì che, invece di puntare sulle produzioni di massa, che sarà difficile riportarle, puntino su produzioni di nicchia e soprattutto sulla tecnologia, ovvero sulla proprietà intellettuale. Anche quella sul credito bancario, il Sole 24 Ore, devo dire, ha fatto ampie inchieste, si è arrivati anche a dimostrare che ci sono banche che chiedono il 13%, sono picchi, per fortuna, che restano tali. Però è indubbio, Alessandro, che in questo momento il credit crunch, chiamiamolo come vogliamo, Maria, Giovanna, ma in parte è in atto. Le banche hanno difficoltà per prestarsi soldi tra di loro a livello europeo, ecco perché interviene la BCE, ecco, sì, perché c'è il tasso che sta andando avanti ormai dal post Lehman, diciamo così, ormai sono parecchi anni, dal 2008-2009 che proseguiamo con questo trend in cui le banche non solo non si fidano tra di loro, ma cercano di limitare il più possibile la quantità di contanti che danno ai clienti. Guarda, noi abbiamo avuto lettere su lettere di persone che non sono riuscite ad avere il mutuo, non perché non erano affidabili, ma perché la banca gli dice: la nostra politica è di non dare più mutuo, andate da Banca Intesa piuttosto che da un'altra banca che è più, diciamo in questo senso, è più di manica larga sulla questione dei mutui. È una questione reale. Ora, quanto durerà? Il problema è questo: non ci sono all'orizzonte, diciamo così, delle situazioni così drammatiche, o almeno sono difficili ma non drammatiche, e le misure che sono state messe in cantiere e operative già da domani, come quest'asta illimitata che farà la Banca Centrale Europea a 3 anni con tasso 1%, quindi ridicolo, questo aumenterà enormemente la liquidità in mano alle banche, e speriamo quindi che con lo stabilizzarsi della situazione si ritorni anche ad avere denaro, perché guardate, qui non è quanto ci costa soltanto, ma il fatto stesso di averlo. Non basta più essere affidabili, bisogna trovare la banca che è disposta a tornare a fare il suo lavoro, rischiare per guadagnare. E ci sono 100 miliardi di crediti, diciamo, se non inesigibili, incagliati, come da denuncia della settimana scorsa. Mario della provincia di Milano, buonasera. Buonasera, mi scusi se la disturbo. Ma perché mi disturba? Sì, il numero è pubblico. Non mi disturba affatto. Sinteticamente, noi abbiamo una situazione in Italia in cui abbiamo fatto passare il nostro debito in valuta estera dalla valuta nazionale. In pratica, chi si indebita in valuta nazionale va all'inflazione, chi si indebita in valuta estera va al default. In questo momento noi siamo in una condizione che dovremmo sbattere moneta, la Germania non lo fa battere, come lei più volte l'ha detto, per paura dell'inflazione. A questo punto, secondo lei, questa politica tedesca sull'inflazione è una politica voluta, perché non credo che siano dei folli, voluta per poi mangiarsi tutte le grandi industrie dei paesi in difficoltà, facendo un espansionismo? Sì, attenzione al complottismo. No, ho capito la domanda. Guido Gentili, chiudiamo con te. Te la posso integrare a questa domanda? E cioè, dopo, se la situazione si stabilizzerà, se veramente entro marzo e febbraio gli accordi presi 3 settimane fa porteranno dentro la Costituzione il pareggio di bilancio, quello che la Germania chiede, è immaginabile una Germania che, senza mollare il colpo sul controllo dei conti pubblici e dei debiti dei paesi capisca che o parte una fase anche espansiva oppure anche la Germania si ferma l'anno prossimo come da previsione? Ma innanzitutto io voglio dire, io non sono affatto sicuro che entro marzo abbiamo uno sblocco dell'Europa su questo punto, perché prevedo ancora delle settimane e dei mesi molto difficili con delle tensioni molto forti. Punto primo. Punto secondo, per quanto riguarda la Germania, l'Europa come è stata disegnata fin qui, comprese le decisioni del 9 dicembre scorso, sono quelle di un'Europa a trazione tedesca. Quindi secondo me la Germania cercherà, anche perché la Merkel purtroppo guarda alle elezioni che ha nel 2013, Sarkozy guarda alle elezioni che ha nel 2012, nel 2012 si vota anche in America, quindi sono leader che guardano alle scadenze elettorali più che alla scommessa politica di un'Europa davvero unita e soprattutto efficiente. Quindi secondo me la Germania terrà duro su questo punto, perché sta insistendo molto e non credo che la situazione da questo punto di vista si sbloccherà. Parlo degli Eurobond, se non proprio presi per la gola, se dovesse essere veramente sull'orlo del tracollo dell'euro, e parlo anche di un ruolo diverso della Banca Centrale. Della Banca Centrale, al di là degli aggiustamenti che si stanno facendo in questi giorni. Grazie Alessandro Pratelotti, vice direttore del Sole 24 Ore, grazie Guido Gentili, dottore di Stato del Sole 24 Ore. Domani, tra l'altro, il Sole, ve l'annuncio io, avrà numerose pagine inchieste sul tema proprio spread, obbligazioni, titoli di Stato e quant'altro. Da Sebastiano Beresoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani, anche domani valgono le telefonate 800 24 00 24 dalle 17 in poi. Radio 24, il Natale si sente.